Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E siamo alla fine della giornata, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quindi siamo all'inizio di Effetto Notte, dove vi racconterò come sempre le notizie che hanno caratterizzato questa giornata, quelle sono state le notizie principali, e poi ci saranno diversi ospiti per approfondire alcuni argomenti. Giornata che è stata dominata, per quanto riguarda le questioni casalinghe nostre, interne, dalla assemblea del Partito Democratico. Il Partito Democratico ha ancora dilaniato un po', diciamo, da questo dubbio amletico: Renzi deve incontrare Berlusconi per discutere di riforme o non è giusto che lo incontri? Anche un quesito che a mia volta tormentata vi lancio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, effettonotte_Roberta Giordano, oppure se volete scrivere attraverso i messaggi SMS al 349 238 6666. Sapete che c'è una buona parte del PD che continua a dire no, non deve andare, è un pregiudicato, poi fuori dal Parlamento non conta, parli con qualcun altro, diceva ieri Roberto Speranza proprio qua, capogruppo del PD alla Camera, proprio qui a Effetto Notte. Ieri ha detto insomma incontri Renzi qualcuno di Forza Italia, ma non proprio Berlusconi. E poi altra notizia forte di oggi è questo annunciato passaggio di un cargo con le armi chimiche che vengono portate via dalla Siria, che passerà nel porto di Gioia Tauro in Calabria. Quindi il sindaco è molto preoccupato di questo passaggio e poi lo dovremo riuscire a contattare tra poco. E pensate, questo mi ha fatto venire in mente per una cosa, se ne fa un problema di sicurezza ma il governo rassicura, pensate cosa è successo negli Stati Uniti. C'è uno scandalo che riguarda le basi nucleari, niente poco di meno. Prima si accusavano questi soldati, questi ufficiali che dovevano gestire queste basi nucleari, di abusare di alcol, poi di droga, poi di negligenza e ora anche di imbrogli agli esami di abilità. Quindi un nuovo scandalo che scuote la USA Air Force Nuclear Command, il comando nucleare dell'aviazione militare americana. Ben 34 ufficiali che hanno la responsabilità di lancio di 150 missili intercontinentali con testate nucleari sono stati sospesi con l'accusa di aver imbrogliato un esame a cui vengono sottoposti periodicamente per verificare la loro competenza. L'arsenale nucleare rimane sicuro, si sono affrettati a far sapere dal Pentagono, ma pensate che l'allarme sale dopo aver appreso di quest'ultima vicenda. Anche lo stesso segretario della difesa, cioè il ministro della difesa americano Chuck Hagel, ha fatto sapere di essere profondamente preoccupato. Ma partiamo con la nostra giornata. L'assemblea del PD, vi dicevo, sono stati 9 mesi di fallimenti, ha detto Renzi, ora partano le riforme o saremo spazzati via. Armi chimiche sono quelle portate via dalla Siria che arrivano al porto di Gioia Tauro, il sindaco protesta mentre il governo rassicura. Carceri per il detenuto Vincenzo Di Sarno, il giudice dice no alla scarcerazione, ha disposto il ricovero in ospedale. Cinema, la grande bellezza in corsa per gli Oscar, l'appuntamento è per il 2 marzo. Tanto per cambiare, partiamo quindi dalla politica, in particolare dalla direzione dell'assemblea del partito, assemblea del Partito Democratico. Il segretario Matteo Renzi ha insistito sull'assoluta necessità delle riforme anche proprio per la sopravvivenza del governo, vero Vincenzo Miglietta? Sì, buonasera ciao, ai nostri Vincenzo. Ascoltatori, è così. Renzi parte dalla constatazione, a suo dire, che negli ultimi 10 mesi non è stato fatto nulla sul fronte delle riforme, quindi la sua critica esattamente non è al governo Letta, ma è alla politica in generale, quindi all'immobilismo della classe politica che sulle riforme non ha fatto nulla. Anche se Letta non l'ha presa benissimo, Vincenzo. Che assolutamente, ha detto, ma... è così, non l'ha presa benissimo, ha detto ho fatto quello che potevo, in parole povere, il governo ha lavorato in un contesto storico, in una congiuntura economica internazionale che sappiamo essere molto difficile, queste le parole di Letta. Quindi il richiamo, tornando a Renzi, è stato quello di fare presto sul fronte delle riforme, e soprattutto logicamente Renzi si riferisce ed è preoccupato per la legge elettorale. E sulla legge elettorale, Roberta, la posizione di Renzi non cambia, deve essere presente un premio di maggioranza, questa è la condizione che pone il sindaco di Firenze, quindi una legge elettorale che consenta al termine dello scrutinio di sapere chi ha vinto e chi governerà quindi nei prossimi anni. E poi altro fronte, lo dicevi nelle anticipazioni, la preoccupazione è quella di Renzi di parlare con tutti, il confronto deve essere a 360 gradi, ha fatto capire Renzi non ho problemi a incontrare Forza Italia e tantomeno Berlusconi. Su questo è stato chiaro, grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Grazie. E non se ne è parlato lì alla direzione del PD, ma il caso De Girolamo, della ministra Nunzia De Girolamo, oltre a scuotere la maggioranza, sta creando anche non pochi problemi proprio nel PD. La ministra riferirà comunque domani in aula. Oggi la segretaria di Scelta Civica Stefania Giannini aveva invitato la ministra a valutare l'opportunità di dimettersi, ma sentiamo cosa ha detto Nunzia De Girolamo. Credo che quella della signora onorevole Giannini, mi pare, sia una posizione di carattere personale, come ha chiarito il leader del partito, e per me conta il partito per intero, non una posizione personale. Come ho detto, io ricordo bene quella conversazione e dirò domani in Parlamento tutto ciò che ho da riferire. Sono molto serena, anche se molto stanca, e ho grandissima fiducia nella magistratura. Quindi domani giornata cruciale per Nunzia De Girolamo e anche per un po' il suo destino da ministra. Ora parliamo però delle armi chimiche, come vi dicevo, armi chimiche siriane, che transiteranno nel porto di Gioia Tauro verso fine gennaio. L'operazione, che verrà completata in breve tempo, sarà svolta secondo i più alti standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Questo lo assicura il governo in una nota, ma i sindaci della Piana sono sul piede di guerra. Infatti poi, come vi dicevo, cercheremo di raggiungere per telefono proprio il sindaco di Gioia Tauro. La più importante operazione di disarmo degli ultimi 10 anni, così l'ha definita il ministro degli esteri Bonino parlando alle commissioni esteri di Camera e Senato, e per questa operazione è stato scelto il porto calabrese di Gioia Tauro. Lì avverranno le operazioni di trasbordo dell'arsenale siriano, solo una parte, ha precisato il ministro, dal cargo danese Ark Futura alla nave americana Cape Ray. 560 tonnellate di armi chimiche per 60 container. Ciò dovrebbe avvenire tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e durare non più di 48 ore. Sono agenti pericolosi, ma di una pericolosità normale, ha assicurato il ministro dei trasporti Lupi, anch'egli in audizione. Rientrano in classi di prodotti che vengono trasportati ogni giorno in Italia. Il trasbordo sarà realizzato senza lo stoccaggio dei container a terra e in assoluta sicurezza. Ma il sindaco di Gioia Tauro, Renato Bellofiore, protesta: una scelta gravissima di cui nessuno mi ha informato. Mettono a repentaglio la mia vita, perché se succede qualcosa la popolazione mi viene a prendere con un forcone. Mentre il primo cittadino di San Ferdinando, comune sotto il quale ricade la maggioranza delle banchine, sta pensando di chiudere lo scalo. Ipotesi impossibile, ribatte Lupi. Se Gioia Tauro chiude, occorre farlo per le operazioni analoghe che vi si svolgono lì tutto l'anno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alle indagini sulle spese fuori controllo nelle regioni. È stato chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Cota, presidente della regione Piemonte, e per altri consiglieri regionali. L'inchiesta è quella sui rimborsi. La decisione della Procura di Torino era nell'area, dopo che a novembre 43 consiglieri regionali del Piemonte, quasi tutti del centrodestra, avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini. Oggi è stato dunque chiesto il rinvio a giudizio per il governatore Cota e per 37 consiglieri nell'ambito della cosiddetta inchiesta sul rimborsopoli. Le accuse sono di peculato, truffa e finanziamenti illeciti ai partiti. Secondo gli inquirenti, fra il 2010 e il 2012 le persone sotto inchiesta avrebbero usato i fondi pubblici, quelli destinati ai gruppi regionali, per spese private. C'è chi ha speso più di 2.000 euro in profumeria, 2.300 euro in fiori, chi in un paio d'anni si è fatto rimborsare ben 36.000 euro fra macelleria e panetteria, chi ha speso 5.000 euro per imparare l'uso dei social network e chi ha comprato una lavatrice con i soldi pubblici. Sulle richieste di rinvio a giudizio dovrà ora decidere il GIP, che fisserà la data dell'udienza preliminare. La Procura di Torino ha anche chiesto oggi l'archiviazione per 18 persone, fra cui l'ex presidente Mercedes Bresso e il capogruppo di SEL Monica Cerutti, mentre la posizione di un consigliere è stata stralciata. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per restare su queste questioni regionali, diciamo così, in Sicilia invece non solo panettoni, pandori, strenne natalizie, bottiglie di vino, borse, cravatte griffate e auto in leasing, c'è anche il rimborso del gelato per un importo di poco superiore agli 8 euro nelle carte dell'inchiesta condotta dalla Procura di Palermo, in cui sono coinvolti 84 tra parlamentari ed ex parlamentari siciliani. Tutto veniva rimborsato dal gruppo, bastava portare lo scontrino, quindi anche il gelato, anche solo il cono del gelato. Adesso invece occupiamoci delle decisioni che saranno assunte in sede europea il prossimo 22 gennaio sugli obiettivi climatici ed energetici europei al 2030. Non devono penalizzare, così ha chiesto il presidente di Confindustria Squinzi, il sistema produttivo italiano. Lo chiede Squinzi in una lettera inviata al presidente del Consiglio Enrico Letta, dove ha bocciato la possibilità di ridurre le emissioni di gas serra del 40% a livello domestico. Spiegando, Squinzi ha detto che si tratta di un obiettivo difficilmente realizzabile. La lettera che abbiamo inviato al Presidente Letta, peraltro non solo al Presidente Letta ma anche al Presidente Barroso, non è che aspettiamo una convocazione, siamo sempre pronti comunque a parlarne, però è una presa di posizione molto netta, molto chiara, che questo limite del 40% di riduzione della CO2, delle emissioni di CO2, del 40% in più di efficienza e del 40% di energie rinnovabili sarà catastrofico per la competitività del sistema manifatturiero italiano. Adesso il caso di un carcerato napoletano. Il magistrato di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di differimento pena presentata dai difensori di Vincenzo De Sarno. Ieri per lui era intervenuto il Presidente della Repubblica. È stato trasferito in ospedale questo pomeriggio Vincenzo Di Sarno, il detenuto di Poggioreale malato di tumore, che ha chiesto l'eutanasia piuttosto che morire in carcere. Di Sarno aveva chiesto la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena e la detenzione domiciliare. In una lettera appello inviata al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano chiedeva di morire subito piuttosto che in queste condizioni in prigione. Il Quirinale era intervenuto in sua difesa, dichiarando: sospendete la pena, l'uomo malato, ma il tribunale di sorveglianza ha rigettato il differimento della pena perché non sarebbe in pericolo di vita, però ha stabilito il ricovero in una struttura specialistica oncologica, cioè l'ospedale Cardarelli di Napoli. Malgrado la gravità del quadro clinico, il detenuto è indicato nella relazione sanitaria come lucido, vigile e cosciente. Vincenzo Di Sarno, 38 anni, è stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio. E al servizio di Enza Loddo, e di questo caso poi torneremo a parlare nel corso di Effetto Note. Adesso spostiamoci però all'estero, in Egitto. Gli egiziani approvano il nuovo testo costituzionale, hanno votato in questi giorni, ma violenti scontri si sono verificati all'Università di Alessandria, al Cairo, dove uno studente è stato ucciso dalle forze dell'ordine. Sentiamo l'analisi dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. È la marcia trionfale del generale al-Sisi. Così si può definire il referendum costituzionale in Egitto, che secondo i dati ufficiali ha ottenuto un'approvazione del 90% dei voti e un'affluenza alle urne del 42%, superiore a quel 33% che caratterizzò il referendum precedente quando erano al potere i Fratelli Musulmani, spazzati via dal colpo di Stato del luglio scorso. Ma in questo plebiscito qualche dubbio si insinua. Prima di tutto il fatto che sul terreno siano rimaste alcune decine di morti negli scontri tra le forze di sicurezza e i Fratelli Musulmani, ormai messi fuori legge. L'Egitto appare ancora un paese diviso e non stabilizzato. Anche la stampa ufficiale proietta qualche ombra su questo trionfo dei generali. Secondo lo storico quotidiano L'Aram, l'affluenza è crollata al 27,7%, mentre il governatore Galal Al-Said smentisce e conferma una partecipazione superiore al 40%. Quel che è certo è che Abdel Fattah al-Sisi, attuale vice primo ministro, ministro della difesa e capo delle forze armate, è il nuovo faraone in corsa per le prossime elezioni presidenziali e destinato a svolgere un ruolo da protagonista. Restando sulle notizie dall'estero, vi leggo velocissimamente dei dispacci di agenzia che stanno uscendo. Uno riguarda il Datagate americano, no? Ci sarebbero nuove rivelazioni, per il momento però non si sa altro. Poi sul caso Land, Julie Gayet, sarebbe la sua amante, attrice, produttrice, smentisce voci sulla gravidanza. E poi ci sono gli Stati Uniti che sfidano l'Italia sulla Nutella. C'è il gigante della cioccolata americana Hershey che ha annunciato il lancio di un prodotto che ricorda in tutto e per tutto, appunto, anche nella confezione, la nostra Nutella. Vediamo se sarà in grado mai di arrivare alla pari. Ma intanto chiudiamo con un grandissimo successo, almeno per ora, ma già questo è sufficiente. Parliamo di cinema. Nella notte del 2 marzo l'Italia del cinema si gioca la carta degli Oscar. La grande bellezza è entrata nella cinquina per il miglior film straniero. Nella notte tra domenica e lunedì era arrivato il Golden Globe e l'Italia aveva cominciato a crederci seriamente. Ora, però, la notizia che tutti aspettavano. The best foreign language film, the nominees are... From Italy, Per la grande bellezza di Paolo Sorrentino arriva la nomination, un posto nella cinquina dei titoli candidati all'Oscar per il miglior film in lingua non inglese. 8 anni dopo La bestia nel cuore, 15 dopo La vita è bella, ultimo film che arrivò fino alla statuetta. A sfidare La grande bellezza non c'è il rivale più temuto alla vigilia, La vita d'Adele, ma The Broken Circle Breakdown, Belgio, Il sospetto, Danimarca, The Missing Picture, Cambogia e Omar, Palestina. American Hustle e Gravity guidano la pattuglia dei film con più nomination, con 10 candidature. Segue con 9 12 anni schiavo. Che star vedremo sul red carpet? Candidati come migliori attori Christian Bale, Bruce Dern, Leonardo DiCaprio, Chiwetel Ejiofor, Matthew McConaughey. Candidate come migliori attrici Amy Adams, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Judi Dench, Meryl Streep. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo si può chiudere, diciamo, il riassunto iniziale della giornata. Poi andremo avanti con altri argomenti, ci saranno i primi ospiti, parleremo all'inizio, dopo questa pausa, di politica. A questo proposito, ritenete che sia opportuno o non opportuno che Matteo Renzi incontri per discutere di riforme Silvio Berlusconi? Sapete che su questo si sta un po' spaccando il PD. Pensateci, intanto prendiamo una sosta per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi, vi dicevo appunto di riflettere e di esprimere le vostre opinioni sia sulla questione appunto PD, se Renzi deve incontrare o meno Berlusconi, sia attraverso i messaggi che sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per i messaggi 349-238-6666. Prima allora di salutare il primo ospite di questa sera, vi ricordo i titoli principali di oggi. Appunto, l'assemblea del PD, sono stati 9 mesi di fallimenti, ha detto Renzi, ora partano le riforme o saremo spazzati via. La vicenda delle armi chimiche dalla Siria, sono quelle portate via appunto dal paese in cui c'è la guerra civile, che arrivano al porto di Gioia Tauro. A fine gennaio il sindaco protesta e il governo rassicura. Carceri per il detenuto Vincenzo Di Sarno, il giudice dice no alla scarcerazione e ha disposto il ricovero in ospedale. E cinema, l'avete sentito, La grande bellezza è in corsa per gli Oscar, l'appuntamento è per il 2 marzo. Filippo Taddei, buonasera. Buonasera. Responsabile, ben ritrovato, responsabile economico del PD, nonché docente di economia alla Johns Hopkins University di Bologna, ed è appunto un pezzo forte della segreteria del PD occupandosi di economia. Ma Taddei, a proposito di questo e di tanti altri temi, allora, questi 9 mesi di governo di larghe intese, poi si sono un po' ristrette con lavaggio, in lavatrice, eccetera, sono stati un fallimento oppure no? Perché ha sentito oggi Renzi, l'ha detto, poi Letta e poi si è un po' contrariato su questa cosa. E come sono stati questi mesi secondo lei? Dunque, quello che Renzi ha detto, e qui cito testualmente, è che il governo Letta è a un livello di popolarità molto basso, e ha subito aggiunto, lo dico con grande dispiacere, perché il senso, la missione del Partito Democratico è far sì che l'azione di governo sia la più incisiva e la più utile possibile per il paese. Ora, naturalmente, su che cosa si concentrerà il Partito Democratico, che è stato il tema della relazione di Matteo Renzi questa sera? Sulla legge elettorale sul patto per il lavoro, il cosiddetto Jobs Act. Sulla legge elettorale il segretario ha imposto un'accelerazione che sinceramente è ammirevole, è inusitata per i tempi dilatati della politica italiana, e soprattutto la nuova segreteria del Partito Democratico ha fatto una scelta abbastanza inusuale, che è di impegnare se stessa, e rischiando parecchio, insomma, alla fine un segretario appena eletto, comunque eletto con un largo consenso come Matteo Renzi, poteva tranquillamente stare lì in attesa, cominciare il solito processo che abbiamo visto molto tempo, era nel suo interesse, nell'interesse della sua popolarità. Invece sta decidendo di scommettere tutto questo e di rischiare buona parte di questo consenso, impegnandosi per quella che è una cosa fondamentale, il cambiamento di questa bella legge elettorale, che la Corte ci lascia proprio un sistema elettorale che, se noi andassimo al voto con questo sistema, ci lascerebbe un Parlamento totalmente frammentato, diviso tra un PD forse maggioritario ma non abbastanza per avere i numeri, un Movimento 5 Stelle dall'altra parte, Forza Italia, Nuovo Centro Democratico. Sinceramente è il contrario di una scelta bipolare che gli italiani hanno svolto qualche anno fa. Renzi si è dato un po' un tempo, dice 4 mesi grosso modo, no, per queste riforme, ma per la legge elettorale mi sembra che non si riesca ancora a trovare molto accordo, tanto che Renzi dice che bisogna discuterne un po' con tutti, compreso Berlusconi. Secondo lei è cosa giusta, buona e giusta che si incontri con Berlusconi per discuterne? Beh, guardi, naturalmente queste sono cose che noi condividiamo in segreteria. Guardi, non in segreto, ma in segreteria, quindi. Non in segreto, ma in segreteria, ha detto bene. Guardi, io mi scusi. Prego. Prende freddo l'intreno, mi sembra. No, ma più che altro sono sceso perché siamo fermi in stazione, così almeno non riusciamo, così dovremmo farcela. La ringrazio. Ma quando riparte risaliamo. Ma quello che succede, guardi, il tema della... per quello che riguarda la legge elettorale, Renzi si è impegnato a 3 giorni di forza, conclusi che verranno conclusi dalla direzione di lunedì, direzione in cui lui relazionerà il massimo organo del Partito Democratico su quello che saranno state le consultazioni che svolge adesso. Nessuno penso abbia un'opinione peggiore dell'ex presidente Silvio Berlusconi, del sottoscritto, ma il punto è che il Berlusconi è un leader politico di una forza parlamentare importante, e l'errore più grande che potremmo fare è fare esattamente quella che è stata l'errore dietro Porcellum, cioè una legge elettorale che venga vissuta come una legge elettorale di parte. Noi vogliamo fare una legge elettorale che valga, che consegni questo paese al bipolarismo e valga per i prossimi 20 anni. Per fare questo non possiamo fare altro che farla in maniera condivisa, quindi si parla con tutti, come lei sa, quindi Lega anche Nord, con Berlusconi, Taddei. Ma con Berlusconi, ma io le dico, anche noi abbiamo provato anche a parlare con Lega Nord, con il Movimento 5 Stelle, ci hanno più o meno gentilmente declinato l'invito. Sì, è un errore loro. Noi vogliamo fare la legge elettorale più condivisa possibile, naturalmente nell'interesse del paese, e l'interesse del paese è rispettare quello che i cittadini italiani hanno scelto oramai più di 20 anni fa con i referendum dei primi anni 90, che è un chiaro bipolarismo. Quindi nel quel bipolarismo, con quella governabilità, una legge condivisa è l'obiettivo del Partito Democratico. Sempre tra quelle tre proposte che erano il Mattarellum rivisitato, il modello spagnolo, oppure quello dell'elezione del sindaco, no? Vero. E comunque ieri avevamo la deputata del Movimento 5 Stelle Carla Ruocco, che ha detto, così come ha detto anche Casaleggio, le proposte di Renzi sono inesistenti. Comunque volevo leggere brevemente sulla pagina Facebook di Effetto Notte alcuni commenti su questo possibile incontro. Angela scrive: se restasse ancora un briciolo di dignità la nostra politica, ma soprattutto l'Italia, dovrebbe poterne fare a meno di questo incontro. Domenico: è ancora il capo Berlusconi di un partito presente in Parlamento, quindi purtroppo deve incontrare. Tony: manco per sogno, anzi dovremmo fare a meno anche di quella nullità, il niente col buco attorno, si riferisce a Renzi, sa, un po' qualcuno è anche critico. Ramona scrive: è la democrazia. Ecco, pur essendo un leader di un partito, Berlusconi è un pregiudicato e come tale nessun incontro deve avvenire assolutamente. Danilo: se il fine di Renzi è quello di dilapidare in poco tempo il suo consenso incontrando Berlusconi, fa la cosa giusta, insomma, piuttosto critico. Riccardo: ormai è chiaro che non ci sono più le larghe intese, ma sembra che Renzi faccia tutto alla luce del sole e deve incontrare tutta l'opposizione per le riforme elettorali, che ci piaccia o no. Poi Emilio: parlare con chi ci ha evitato l'incidente diplomatico con l'Egitto è surreale, questo non mi è immediatamente chiaro. Ennio: penso che la morale non la possono cercare uomini che hanno fatto affari, governi e connivenze con lui, che questo può essere anche vero del resto, no? Come ha detto Renzi, non mi scandalizza il fatto di incontrare Berlusconi quanto che si sia dimesso qualcuno, faceva riferimento a Fassina, per una battuta e non quando ci sono state le condanne nei confronti di Berlusconi. Sì, guardi, però su questo io vorrei chiarire qualcosa di fronte al paese. Non è che incontriamo Silvio Berlusconi perché è una bella persona o perché è una persona stimabile che ha una storia perfettamente cristallina. Lo incontriamo perché c'è un rapporto politico, cioè quella è una forza parlamentare. Noi siamo la più importante e più larga forza parlamentare. Matteo Renzi assume su di sé e sul Partito Democratico la responsabilità di cambiare questa benedetta legge elettorale. Io veramente, è impresentabile, è una cosa inaccettabile, questo è una cosa che non si può spiegare a nessun cittadino italiano e a nessun cittadino che non sia italiano, come stiamo a cincischiare sul cambiamento della legge elettorale. Ora, io capisco tutto, ripeto, non ho nessuna simpatia per l'onorevole Berlusconi da un punto di vista né umano né politico, eppure stiamo cercando di fare una legge elettorale nell'interesse del paese, non di organizzare una scampagnata o una cena tra amici. Senta, Cuperlo, presidente del PD, mi sembra che metta un po' le mani avanti. Ha detto: sarebbe saggio valutare le ragioni di un Letta bis davanti al rischio, dice, del logoramento progressivo. Sarebbe saggio valutare le ragioni non di un rimpasto, di cui si è tanto parlato in questi giorni, ma di una vera e propria ripartenza, valutando l'ipotesi di un nuovo governo presieduto da Letta. Quindi vede un Letta bis, lei lo vede, Filippo Taddei, un Letta bis? Io guardi, con il massimo rispetto per il presidente Cuperlo, io non capisco il senso di questa affermazione. Cioè, io penso che non capiscono i cittadini italiani, che è la cosa più importante. Se si chiede un Letta bis, che vuol dire un nuovo governo o un rimpasto di governo, tutte cose che il segretario del PD non ha chiesto, bisogna chiedere, dire perché cosa, cioè qual è la proposta politica. Se parliamo di proposta politica, allora ci siamo. Se dobbiamo dire queste cose, io penso che sia proprio un errore come classe dirigente parlare di queste cose, di parlare astrattamente di forme di governo senza parlare di proposte politiche. Pensate da quel punto di vista Matteo Renzi, che innovazione ha portato. Vi dice: cambiamo la legge elettorale e facciamo una grande operazione per la riforma, non del mercato del lavoro, ma della riforma del lavoro e per la crescita economica di questo paese. Io mi impegno su queste due cose. Tutto il resto è conseguente e quindi tutti i ragionamenti diventano conseguenti a quel punto, quelli su il futuro del governo, il cambiamento di ministri o magari la data delle elezioni, ma in quella logica vanno viste. Parliamo della politica, delle cose che vogliamo fare e poi tutto il resto diventa conseguente. Parlare delle scadenze elettorali o dei nuovi governi senza dire in che senso si vuole fare qualcosa di diverso rispetto al passato, cioè che cosa si vuole fare di diverso, è sinceramente difficile da capire, ma non per me. È difficile capire, secondo me, per i suoi cittadini italiani, per i suoi radioascoltatori e per tutti gli altri. A questo proposito, Taddei, sentiamo un passaggio del discorso oggi di Renzi all'assemblea del PD, una specie di monito, ecco. Sono i prossimi 4 mesi, se noi non riusciamo a portare a casa dei risultati, in cui non è che faranno distinzione tra chi ha votato Cuperlo, chi Civati e chi Renzi. Faranno un pacchetto unitario e diranno: voi siete i responsabili del fallimento. O c'è questa consapevolezza e il dramma dell'urgenza di una risposta in questo senso, o se non c'è questa consapevolezza, può darsi che la mia sia una lettura pessimistica, ma se non c'è la consapevolezza e pensiamo che si possa continuare a andare avanti come se niente fosse, noi saremo spazzati via. Quindi questo è il rischio, di essere spazzati via. Taddei, quindi sul Jobs Act, adesso piano per il lavoro, diciamo, più semplicemente, che è una delle priorità, no, presentate da Renzi, riforma elettorale, dice rapporti col governo e piano del lavoro. Lei lo convince questo piano del lavoro di Renzi? Beh, sarebbe un problema se non mi convincesse. Beh, certo, visto che è responsabile economico. Sono praticamente, senta, praticamente quello che insieme alla Badia che lo scrive. Ecco, mi scusi se lo interrompo, ma il problema delle risorse, no, che forse è stato una delle prime cose che avevo chiesto anch'io appena uscito, proprio mentre stavano uscendo i primi elementi di questo Jobs Act, e poi l'ha chiesto anche il ministro Giovannini il giorno dopo, non per fare quella che ha il primato del dubbio sulle risorse. Insomma, queste risorse si riusciranno a recuperare per l'assegno universale, per i corsi, per quelli... Guardi, sì. Io ho trovato il dibattito sulle risorse una domanda giusta, però assolutamente prematura. Vorrei rassicurare da quel punto di vista. Prima di tutto perché si è parlato di strumenti che possono essere declinati in centinaia di modi diversi, con impegni finanziari molto diversi. Io non c'è stato, anche da personalità di importanti del governo, cioè ci sono, è importante soffermarsi su quella che è la proposta precisa o valutare quelle che sono le proposte precise e poi vedere se quali sono le coperture impiegate e quelle e se sono reperibili. Il mio lavoro come responsabile economico è esattamente studiare quelle coperture, vedere quanto quelle cose costano. Vorrei rassicurare che noi abbiamo indicato un obiettivo, che è l'estensione degli della copertura degli ammortizzatori sociali, che è la defiscalizzazione del lavoro. Quando facciamo la proposta e diciamo facciamo questo taglio, facciamo questa estensione, quella proposta sarà assolutamente responsabile, cioè sarà coperta. Mi farebbe piacere che nel dibattito che conduce a quella proposta, che non è ancora stata presentata, ma non perché non lo sappiamo, ma perché i tempi della politica, con tutto rispetto, li decidiamo noi e li decide il Partito Democratico, quella è la proposta del Partito Democratico. Mi farebbe piacere che se qualcuno ha un'altra proposta, o magari che quella, la proposta che sarà uguale a quella che presenteremo noi, si faccia anche carico di dire come pensa che vada finanziata. E se pensa che qualunque proposta di estensione della disoccupazione, che qualunque tipo di defiscalizzazione del lavoro sia impossibile, ci dicano allora che è impossibile. Siccome noi pensiamo che entrambe le cose siano possibili, allora vi diremo anche come andare a finanziare. Un'ultima o due domande ancora velocissime, Filippo Taddei, poi la lascio al suo treno. È bene che la Fornero abbia detto, l'ex ministra Fornero abbia detto che il Jobs Act di Renzi è in continuità con la sua riforma, cioè è ben augurante questa cosa, non so, poi, no, poi è congruente. Non lo so, lasciamo all'ex ministro tutte le sue valutazioni. Vorrei dire però un qualcosa a questo riguardo. C'era un obiettivo della riforma della Fornero, che era appunto l'estensione della copertura della tutela della disoccupazione. Per quella ragione viene fatta l'ASPI. L'ASPI in effetti estende la copertura della precedente indennità di disoccupazione e aggrega. Quindi ha un fine universalistico. Quindi nella misura in cui perseguiamo tutti lo stesso fine, universalità della copertura dei disoccupati, sì, siamo in continuità. Vi permetto di dire però che la continuità è un po' più profonda, o la discontinuità, se vogliamo, è un po' più profonda di così. La discontinuità, il tratto veramente caratterizzante di questo Jobs Act rispetto alle riforme che sono state provate prima, è che noi non parliamo di mercato del lavoro, non mettiamo davanti la discussione sull'articolo 18, perché è sbagliata. Noi quello che facciamo è parliamo del problema del paese, che è la crescita economica, e vi diciamo, questo paese è fermo. Per farlo ripartire bisogna fare un investimento sul lavoro. L'investimento sul lavoro si sostanzia di alcune cose. Mi faccio dire le due principali. Primo, noi tassiamo il lavoro più di chiunque altro in Europa e quindi dobbiamo detassarlo. E da quel punto di vista stiamo conducendo una cosa di cui sono abbastanza fiero, che annunceremo nei prossimi giorni, secondo i tempi che darà il segretario, una spending review diciamo parallela del Partito Democratico, di tagli alla spesa che possa essere utilizzati per finanziare la defiscalizzazione del lavoro. E poi seconda cosa che proponiamo, non solo meno tasse sul lavoro, visto che siamo quelli che tassano il lavoro più di tutti gli altri, ma anche un'estensione della copertura della disoccupazione. Riusciremo a coprire tutti? Questa è una bella domanda. Guardi, dipende da cosa intende tutti. Se lei intende anche tutti i lavoratori autonomi, quello porterebbe un impegno di spesa che al momento non penso saremmo in grado di sopportare. Però se io le dicessi che noi stiamo lavorando ad un piano che porta a coprire un mezzo milione di lavoratori in più. Mezzo milione di lavoratori sono pochi. Cioè abbiamo perso così tanto il senso delle cose a forza di parlare di governi e di rimpasti in questo paese, che ci siamo dimenticati che mettere dentro mezzo milione di lavoratori in più o in meno è una cosa che sfavore, è una cosa che è indifferente? No, non è indifferente. Quindi mi permetta, la vera discontinuità di questo Jobs Act è questo, è mettere insieme tutto, capire che il mercato del lavoro è un pezzo, è un pezzo del lavoro. Quello che conta è la crescita economica. Chiarissimo. E quello che conta è il lavoro. Non voglio farle perdere il treno, le dico solo una cosa, ma mi risponde proprio in un frammento di secondo. Era proprio necessario mettere questa S al Jobs Act, che ogni volta uno si impapina quando Jobs Act. Non può dire Job Act oppure semplicemente il piano del lavoro. Siamo d'accordo su questo? Brevemente? Io guardi, sono cresciuto, sono diventato adulto in America, però lo sento l'accento americano. Non amo gli anglismi, però le dico, si chiama Jobs Act perché così l'ha chiamato Obama, e Obama l'ha chiamato così perché il tema non è il lavoro, il tema sono come si creano i nuovi lavori. Benissimo. Allora job lo mettiamo al plurale. E noi ci auguriamo, cioè, che ce ne siano tanti di lavori, datevi da fare, mi raccomando, Filippo. Buon lavoro, buon viaggio intanto, grazie. Adesso lasciamo di prendere il treno a Filippo Taddei, noi prendiamoci una pausa, un momento, poi torniamo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Leggo ancora alcuni vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito dell'incontro possibile, eventuale, tra Renzi e Berlusconi. Paolo, per esempio, scrive ovviamente sì, poi qualcuno dice viva il proporzionale, torniamo alla Prima Repubblica. Insomma, comunque, se volete i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche non indugiate nel cliccare mi piace a Effetto Notte. Adesso vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. L'assemblea del PD con Renzi, che ha detto sono stati 9 mesi di fallimenti, ora partono le riforme o, avete sentito, saremo spazzati via. Le armi chimiche sono quelle portate via dalla Siria che arrivano prossimamente al porto di Gioia Tauro. Il sindaco protesta, è preoccupato, il governo rassicura. Carceri per il detenuto Vincenzo Di Sarno, il giudice dice no alla scarcerazione e ha invece disposto il ricovero in ospedale. Poi il successo della Grande Bellezza che continua perché è in corsa per gli Oscar. Vi dicevo quindi delle armi chimiche. Le armi chimiche di Assad, del presidente siriano, passeranno in Italia. Il ministro Lupi, ministro per i trasporti, ha comunicato il nome del porto italiano che ospiterà le operazioni di trasbordo di questo arsenale di armi chimiche dal cargo danese alla nave americana Cape Ray. E la scelta cade dunque sulla Calabria e sul porto di Gioia Tauro, considerato più sicuro e di più facile gestione in caso di proteste e manifestazioni. Solo che il sindaco non è molto contento, Renato Bellofiore. Buonasera. Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Insomma, non mi sembra che lei abbia mostrato entusiasmo a questa scelta. Ma guardi, non ho dimostrato entusiasmo, penso che sia anche normale. Un sindaco, quindi un avamposto dell'istituzione sul territorio che non viene messa a conoscenza di quello che sta succedendo sul suo territorio. Perché non l'hanno avvisata, sia, questo è il problema. Assolutamente, dice. No, non soltanto questo. Io intanto nel merito ritengo che non sia corretto che ti venga imposta una divisione dall'alto soltanto in un territorio quando non riusciamo a capire intanto le ragioni per le quali si deve provvedere a fare questa operazione. Nello stesso tempo ritengo che sarebbe stato corretto per chi è responsabile della salute pubblica dei cittadini essere informato e poter dire agli stessi cittadini che cosa stava succedendo, mentre io mi ritrovo ad apprendere notizie dai giornali e da informazioni giornalistiche senza essere messo ufficialmente a conoscenza di quello che succederà. Allora, chi dice che verranno bonificate in loco, cioè chi dice che invece saranno soltanto di transito per 20 giorni, lei capisce che un'istituzione seria non può mettere a ripetere chi si dice oppure le notizie, ma deve avere delle fonti ufficiali. Sarebbe stato corretto nei confronti anche di questo territorio ricordarsi il posto di Gioia Tauro non soltanto quando il governo è in difficoltà su alcune scelte che non sono ben volute in altre parti, e non bisogna pensare che la Calabria se l'ha fatto meglio d'Italia, quindi è chiaro, no? Sì, sindaco Bellofiore, lei ha anche detto, ha dichiarato, in questo modo mettono a repentaglio la mia vita, nel senso che sono pericolose le armi chimiche o che qualcuno poi rischia di assalirla per il malcontento? No, c'è sicuramente un grossissimo malcontento nella popolazione. Le tenga presente che questa è già una zona che è stata purtroppo vittima di scelte calate dall'alto. Per tutti voglio ricordare la scelta di qualche mese fa di essere sede di un rigassificatore, quindi con problematiche legate a potenziali sviluppi che potrebbero essere anche un'eventuale esplosione, e quindi le immagini se la popolazione può essere contenta quando oltretutto non ha nessun tipo di beneficio da questi impianti. Così come sono anche altre scelte calate dall'alto che noi non abbiamo mai condiviso, sono quelle dell'inceneritore, quindi siamo l'unica sede della Calabria ad avere un inceneritore e addirittura vogliono realizzare un raddoppio, quando invece noi siamo per la raccolta differenziata, siamo l'unico comune della Calabria con 20.000 abitanti a fare la raccolta differenziata spinta senza cassonetti porta a porta, quindi sono delle scelte che contrastano completamente con quella che è la mia linea, la volontà popolare. Sindaco Bellofiore, ma c'è Andrea Margelletti anche, che saluto. Buonasera Andrea. Buonasera a voi, naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori e ovviamente al sindaco di Gioia Tauro. È presidente Margelletti del CESI, Centro Studi Internazionali, ed esperto di antiterrorismo. C'è effettivamente un rischio, Andrea, con questo trasbordo di armi, tonnellate di armi chimiche, che dovrebbe però durare, sentivo, 48 ore all'incirca, se ho capito bene. Non, rischi non ce ne sono, anche perché non parliamo di armi di provetti di vetro che se cadono si rompono, viene fatto tutto in condizioni di massima attenzione, di massima sicurezza, però mi consenta di fare un ragionamento che non riguarda naturalmente solo la vicenda di Gioia Tauro, ma assolutamente più in generale. Non vogliamo gli impianti nucleari, però le paleoliche in Italia nessuno le vuole nel proprio comune. siamo tutti a favore di salvare i clandestini, grazie a Dio il Ministro della Difesa ha avviato l'operazione Mare Nostrum perché era indecente che migliaia di persone morissero in mezzo al mare nel disinteresse di molti paesi europei, non dell'Italia, e questi però clandestini poi le varie regioni d'Italia non le vogliono ospitare. Non vogliamo, vogliamo tutte le strade pulite, non vogliamo la spazzatura, ma se c'è da distribuire la spazzatura di alcuni comuni, gli altri non vogliamo. Insomma, a un certo punto da qualche parte non vogliamo le armi chimiche, perché ci indigniamo tutti a vedere che centinaia di città in paese lontano, centinaia o migliaia di persone muoiono per le armi chimiche, quindi noi non vogliamo che queste persone muoiano in maniera orrenda e terribile tra atroci dolori, però se queste armi chimiche bisogna spostarle, bisogna poi in qualche maniera sistemarla, nessuno vuole, e non mi riferisco, ripeto, alla vicenda di no, no, Paolo, sei chiaro, chiaro. Discorso assolutamente il signor sindaco ha parlato in maniera chiara, limpida, soprattutto trovo imbarazzante che un responsabile come il sindaco di una città debba venire a sapere le cose. Questo sì, su questo siamo d'accordo. Gli posso dare per quel nulla che vale la mia assoluta e totale solidarietà, appoggio, ma solidarietà, quindi ci mancherebbe ancora. Però a un certo punto deve esserci qualcuno che si assume le responsabilità delle cose, perché se la politica è siamo contro ogni ingiustizia, ogni cosa, a favore del green e quanto altro, ma basta che questo non avvenga, non vogliamo i treni che passano, cioè basta che tutto il mondo si fermi fuori dal mio giardino di casa e non viviamo più nel piccolo mondo. No, Andrea Margelti, questo è chiarissimo, ma dimmi una cosa, quindi rassicuri nel modo più assoluto sul rischio che queste armi possono comportare, hai detto non c'è nessun rischio, questa è la risposta definitiva. Sono quasi tutti componenti binari, il che vuol dire che sono totalmente innocui finché non vengono mischiati tra di loro. Quasi tutti. Chiaro. E naturalmente nessuno si mette nella banchina a giocare al piccolo chimico. Le cose vengono fatte, e immagino io, non verranno fatte con pressapochismo, ma verranno fatte con particolare attenzione, perché non lo facciamo per gioco, ma lo facciamo all'interno di una regione, di una città che rappresenta il cuore pulsante dell'economia del sud. Chiaro Margelletti. Bellofiore, io credo che lei abbia tutto il diritto di lamentarsi di non essere stato avvisato, si faccia dare ulteriori garanzie naturalmente dal governo. Sindaco? Pronto, un'ultima battuta, sì. Volevo dire questo, spero che il ministro Lupi e il ministro Bonino vengano a Gioia Tauro durante le operazioni ad assistere, in maniera da assicurare, magari io sarò al loro fianco, ad assicurare la popolazione, perché ci saranno pure loro. Mi pare che sarebbe un'ottima iniziativa, sindaco Renato Bellofiore. Io purtroppo adesso vi devo salutare perché stringe il tempo, però torneremo naturalmente a questa vicenda perché avverrà tra fine gennaio e inizi di febbraio. Grazie al sindaco di Gioia Tauro, Renato Bellofiore, e Andrea Margelletti. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. È il momento adesso invece dell'Europa. L'Europa unita significa anche libera circolazione dei cittadini con interscambio di professionalità da un paese all'altro. Quindi un libero mercato del lavoro per i cittadini delle varie nazioni che ne fanno parte. Su questo vorrei sentire il senatore Luigi Manconi. Europa 24 notte. Verso le europee. Buonasera senatore Manconi. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senatore Luigi Manconi, che è senatore del PD, nonché presidente della Commissione diritti umani a Palazzo Madama. Parlando d'Europa, senatore Manconi, bisogna dire che dal 1 gennaio tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea dovranno dar modo a rumeni e bulgari di accedere al mercato del lavoro europeo, dei vari paesi europei. Questa non è l'immigrazione che tutti intendono un po' così genericamente, è proprio un liberalizzare, diciamo, il mercato del lavoro a diversi paesi che poi fanno parte dell'Unione Europea. Secondo lei come sarà possibile man mano in Europa gestire questi flussi lavorativi, da una parte salvaguardando i posti di lavoro dei cittadini stessi dei paesi, ma dall'altra dando anche la possibilità di questo scambio intercomunitario? Penso che evidentemente si tratta di una prospettiva faticosa, complicata, spesso contraddittoria e quindi difficilmente decifrabile, è tuttavia una prospettiva che non solo è inevitabile perché l'abbiamo voluta, ma che nei tempi lunghi avrà risultati estremamente positivi. Cosa intendo dire che tutto ciò è inevitabile? Che il movimento di uomini è legato al movimento complessivo che tra tutte le nazioni che fanno parte dell'Unione Europea è stato previsto dai trattati, quindi movimenti di persone, movimenti di capitale, movimenti di aziende, movimenti di merci. Noi non possiamo immaginare che ci sia movimento di ciò che ci piace e non movimento di ciò che non ci piace. Non è così. Ora, io dico in una prospettiva faticosa perché non ho una visione ottimistica, però le posso dire subito che pensando solo ed esclusivamente all'Italia, quindi con uno sguardo circoscritto al nostro paese, in 20 anni di immigrazione, e dunque quella proveniente sia dai paesi dell'est sia dai paesi dell'Africa rivierasca, bene, in 20 anni in Italia non si è registrato un solo caso significativo di concorrenza per il posto di lavoro. Ci sono stati numerosi casi di concorrenza per gli spazi, le abitazioni, i servizi, i trasporti, ma per il posto di lavoro nulla che abbia acceso un conflitto particolarmente aspro. Questo ha una sua ragione, è che il mercato del lavoro dei paesi sviluppati o comunque di paesi come l'Italia hanno al proprio interno 1000 possibilità di accesso per persone che vengono da altri paesi e che sono disposto a svolgere lavori che i cittadini italiani e quelli europei non vogliono svolgere. Forse quindi è per questo appunto che non si è creata tanta concorrenza, poi possibilmente, probabilmente in un prossimo futuro cresceranno anche i livelli professionali o di aspettative anche di questi lavoratori che vengono da paesi europei fuori dal nostro. Sa per esempio quanti sono gli imprenditori italiani che attualmente operano in Albania o gli imprenditori italiani che attualmente operano in Romania e quanti tecnici, ma anche i semplici operai che lavorano in quei paesi? È lo scambio. Siamo in presenza di un universo dove lo scambio è quotidiano, assiduo, frequente, incessante e, come detto prima, inevitabile. Ripeto, non è una prospettiva da considerare quasi fosse un idillio. Ci saranno conflitti, ci sono già conflitti, ci saranno tensioni, ci sono già tensioni, ci sono enormi complicazioni, ma questo è il mondo in cui viviamo. Tenga a mente questa percentuale. Un cittadino su 5 appartiene alla fascia di età tra i 65 e i 105 anni. È chiaro cosa vuol dire questo? La nostra è una società che invecchia e in questo paese che invecchia già lavorano 1.700.000 tra badanti e badanti e nei prossimi anni avremo bisogno ancora di 700.000 persone che si dedicano alla cura della casa, degli anziani, dei malati e pochi bimbi italiani che verranno alla luce. Io la ringrazio, senatore Luigi Manconi, le auguro buon lavoro allora. Grazie a lei. Grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso parliamo invece di giustizia, o mala giustizia, quel che volete. Insomma, comunque un detenuto a Poggio Reale, Vincenzo Di Sanno, 35 anni, in carcere da 4, deve scontarne 16 per aver ucciso durante una lite un cittadino extracomunitario, è malato di tumore gravemente, ha chiesto l'eutanasia. Napolitano si è interessato per la grazia, però il giudice dice no alla scarcerazione, lo manda invece in ospedale perché dice non è in pericolo di vita. E poi l'altro caso che vi citavo ieri, è stato scarcerato l'ex primario della clinica Santa Rita di Milano, la cosiddetta clinica degli orrori, Paolo Brega Massone, già condannato a 15 anni e mezzo, ha lasciato il carcere senza andare a arresti domiciliari, senza essere controllato, per una questione giuridica legata a un ordine di carcerazione contestato. Tra l'altro c'è un secondo processo dove è accusato di 4 omicidi, insomma levava polmoni, seni senza che ce ne fosse bisogno. metteva delle protesi già usate e ha causato la morte, pare, di alcuni pazienti. Allora io coinvolgo Bruno Tinti, che già conosciamo. Buonasera Tinti. Buonasera a lei. Ex magistrato, giornalista, scrittore, tra i suoi libri Togherotti, uno che conosce la giustizia dall'interno. Questi due casi ti hanno colpito? No. Sono casi assolutamente normali. Di Sarno è un assassino. Ha ammazzato una persona, certo, ed è stato condannato a 16 anni. In realtà poi questi 16 anni, per via delle leggi vigenti nel nostro paese, diventano fra 6,5 e 7 per i permessi, gli sconti di pena, tutte quelle cose di cui sappiamo anche molto adesso, perché la Cancellieri li ha addirittura aumentati. Prima erano 3 mesi all'anno, adesso sono diventati 4,5. Quindi in realtà lui ne ha fatti 4, dovrebbe uscire fra 3 anni circa. Perché è in prigione ancora? Perché lui è malato, in effetti, si è preso un tumore, poveretto. Ma la situazione può essere semplicemente una di queste due: o è malato e deve stare in ospedale, e in effetti sta in ospedale, è già stato ricoverato in ospedale, e quindi la differenza tra lo stato di libertà e il ricovero in ospedale, o lo stato di detenzione e il ricovero in ospedale, significa 2 carabinieri fuori dalla porta. Cioè non è che ogni detenuto che è in condizioni critiche di salute per questo deve uscire. No, no, anche se i serial killer, ti ricordi, permessi il premio dei serial killer a dicembre, no? Due casi di che erano fuggiti, poi li hanno riacciuffati, insomma. Sì, ma questo però non c'entra. Qui stiamo parlando di un problema diverso. Una persona che è detenuta e si trova in condizioni di salute che richiedono una ospedalizzazione. Controllata. L'ospedalizzazione l'ha avuta. L'unica differenza è che, siccome è un assassino condannato in via definitiva, deve essere sorvegliato dai carabinieri. Bene, l'altro caso invece, Bruno Tinti, l'altro caso è un fatto anche questo strettamente giuridico. Il problema è stato questo: questo signore ha commesso una serie infinita di reati. Sì. Alcuni è stato condannato in primo grado, dopodiché è stato condannato in corte d'appello, ma ha detto la Cassazione, questa condanna comprendeva anche dei reati che erano stati prescritti. Cioè, supponiamo che fosse stato condannato per 5 reati a, mi pare, 7-8 anni di prigione, non so più. Di questi 5 reati, 2 non poteva essere condannato perché era intervenuta la prescrizione. E quindi bisogna calcolare la pena. Quando è stato messo in prigione, il calcolo della pena era sbagliato, è stata revocata. Quindi fuori. Insomma, per questi errori procedurali, insomma, una persona del genere neanche sotto controllo per il momento, fuori. Comunque torneremo a parlarne. Io ti ringrazio, sei sempre prezioso, Bruno Tinti. Grazie intanto, grazie e buona serata. Adesso noi ci fermiamo qua, però vi ricordo come sempre tra alcuni istanti sono di nuovo con le notizie principali.